America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Direi che fra un'ora e tre quarti circa si scriverà una pagina di storia per l'economia aziendale italiana, per l'Italia, perché al New York Stock Exchange cominceranno le contrattazioni del titolo Fiat Chrysler Automobile, FCA. Un capitolo nuovo, si chiude un ciclo durato alcuni decenni, perché il tentativo di matrimonio fra Torino e Detroit risale addirittura agli inizi degli anni 80, ma si apre anche un percorso nuovo, quello per la creazione di un'azienda globale. Ecco, di questo parleremo domani, perché il titolo non è ancora quotato, vedremo come andrà la giornata. Più tardi nel pomeriggio Marchionne e il Khan saranno al New York Stock Exchange e vi racconterò tutto di questo nella puntata di domani. Oggi intanto voglio parlarvi d'altro, vi faccio ascoltare una chiacchierata che ho registrato poco fa sempre qui a New York. Sono ai quartieri generali di Perella Weinberg, che è una banca di investimento. Ovviamente ci occupiamo di finanza, quindi è giusto anche parlare di banche d'affari, però in questo caso parliamo di qualcos'altro. Parliamo del fatto che Joe Perella, che è uno dei co-founder, dei cofondatori di questa banca, e vi descrivo il panorama: sono nel GM Building, che è uno dei più importanti building di New York, per darvi un'idea, e dove c'è il negozio della Apple Computer, lo sapete, il cubo di vetro con grande vista su Central Park. Joe Perella, vi dicevo, è partito anni fa per una missione, l'abbiamo parlato già un'altra volta ad America 24, quella cioè di ricostruire quello che gli italiani, molti italiani, molti eroi nascosti hanno fatto per salvare degli ebrei perseguitati dal nazismo, che stavano per essere deportati, li hanno nascosti correndo loro stessi un grande rischio ed un grande pericolo. Perché vi parlo di questo oggi? Perché ieri sera c'è stato il debutto di questo film al Film Festival degli Hamptons, che è partito alcuni anni fa, fondato da Courtney Ross, la vedova di Steve Ross. Steve Ross è stato un grande personaggio nel mondo dei media americani, è il presidente e amministratore delegato di Time Warner, ha fondato il gruppo Time Warner, e il documentario si chiama My Italian Secret, The Forgotten Heroes, in italiano sempre My Italian Secret, gli eroi dimenticati. E c'è, devo dire, un sottotitolo che mi colpisce molto nel manifesto del film: rischi una vita, la tua vita, per salvare uno sconosciuto. Io ho qui con me ai microfoni di America 24 proprio Joe Perella, executive producer di questo film. Joe, buongiorno. Buongiorno Mario. Da banchiere a executive producer, how is the passage? Very difficult. Molto difficile. È la mia prima e unica esperienza con film production, e non penso ce ne sarà un'altra. Lei si ricorda, Monsignor Schivo, tutto il bene che ha fatto? Quanta gente ha salvato. Altre leggere la storia e altre averla vissuta. Qual è l'idea di questo film? What's the idea about the movie? Well, the idea behind the movie is, l'idea è che se non restiamo indifferenti di fronte al male, possiamo cambiare l'esito della storia. Secondariamente, le persone non sanno che cosa questi italiani comuni, fossero un prete, una suora, un privato cittadino, un poliziotto, hanno fatto dopo il settembre del 1943 per proteggere i propri vicini o coloro che erano fuggiti dalla Germania, dall'Austria. Stiamo parlando almeno di 10.000 persone. Abbiamo voluto concentrarci sulle storie di questi italiani per far sapere al mondo quello che hanno fatto. Il risultato è che l'80% degli ebrei in Italia sono sopravvissuti all'Olocausto. Gino Bartali non collaborò mai col fascismo. Cercarono sempre di mettere in evidenza quello che stava facendo lui, per mettere in evidenza quello che il fascismo riusciva a fare. Ma Bartali fu sempre contrario. Bartali rejects the party's patronage, insulting il Duce. In my opinion, he is a hero. grandi eroi, piccoli eroi. Gino Bartali è stato uno di questi grandi eroi. Ecco, raccontaci di Gino Bartali, com'è questa storia? Gino Bartali won the Giro d'Italia. Gino Bartali ha vinto il Giro d'Italia e ha vinto il Tour de France prima e dopo la guerra. The film basically begins and ends with Gino Bartali. Si può quasi dire che il film cominci e finisca con Gino Bartali. Bartali è un esempio del modo di pensare di molti italiani. His code si fa ma non si dice. Con il suo codice si fa ma non si dice, cioè fece del bene ma senza pubblicizzarlo, perché sentiva che parlarne sarebbe stato come sfruttare la sofferenza di queste persone. Joe, in questo film si descrive appunto l'azione segreta, nascosta, come dice il titolo, di molti italiani che a loro rischio e pericolo hanno salvato moltissimi ebrei. Ci sarà sicuramente qualcuno che dirà, però date soltanto un'immagine molto rosea, non è che tutti erano così buoni o così bravi. Il nostro film non è un tentativo di dire che tutto era fantastico. Parliamo delle leggi razziali, parliamo della ricompensa di 500.000 lire che i nazisti offrivano agli italiani che denunciavano gli ebrei e che alcuni accettarono. Ma se la maggioranza degli italiani non avesse agito con umanità, l'80% degli ebrei in Italia non si sarebbe salvato. I remember airplanes flying overhead, dropping leaflets, warning these people, if you are hiding Jews or partisans, you're dead. Ecco, c'è anche una storia nella storia, perché questo film è stato prodotto da Gio Perella, ma lo hanno aiutato una gran quantità di altri italoamericani. Qual è il punto? È che qui c'è un forte sentimento da parte di questi italoamericani nei confronti dell'Italia. Perché questo ponte, Joe? We feel strongly about this because it's our heritage. Abbiamo un forte legame con l'Italia perché rappresenta il nostro retaggio, la nostra cultura, e questo è il primo punto. Punto due, come italoamericani siamo orgogliosi della nostra storia, del contributo che l'Italia ha dato alla scienza, alla geografia, alla cultura, alla moda, allo stile. Ma siamo anche consapevoli di una certa immagine dell'Italia data dai media, che non è positiva, e in passato ci ha fatto sentire cittadini di serie B. Dunque, con questo film volevamo dimostrare questo legame che sentiamo con l'Italia, dando un contributo nel far sapere al mondo che la maggior parte degli italiani ha agito diversamente dalla gente in altri paesi, che invece hanno denunciato gli ebrei volontariamente durante l'occupazione nazista. E dunque c'è anche il messaggio di rafforzare questo legame fra gli italoamericani e gli italiani. Joe, last question. How can you describe the perception or the being in New York where everything is a little bit more multicultural in your personal experience in this? Well, you know, I think credo che rispetto all'antisemitismo o ad ogni altra forma di pregiudizio razziale non bisogna mai abbassare la guardia e bisogna denunciare il pregiudizio quando vi si assiste. Io sono cresciuto in questa città e sono stato circondato da persone di ogni razza e nazionalità. Mio zio Attilio ha sposato una donna che si chiama Dora Kaltz. Mia moglie, Amy, è ebrea e siamo sposati da 40 anni. Con Bruce Wasserstein ho fondato la Wasserstein Perella e ora sono in partnership con Peter Weinberg. Questa è l'America, questa è New York. È forse uno dei pochi posti al mondo dove gente con origini e culture diverse vive in relativa armonia ed è libera di praticare il proprio credo religioso, di onorare la propria cultura e le proprie tradizioni, e tutti gli altri partecipano e applaudono questa esperienza. Non è stato difficile per me vivere la vita che ho vissuto con le persone che mi circondano, perché sono cresciuto con dei genitori che non definivano le persone per la loro identità razziale o nazionalità. C'era il signor Salzman, il signor Benneck e il signor Gavè, non l'ebreo, il polacco, il portoghese. E sono convinto che se i miei genitori si fossero trovati in Italia durante l'occupazione nazista, avrebbero protetto gli ebrei, proprio come hanno fatto molti altri italiani. Per ora è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!